Namo, let's go! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Hector. No! La Germania è in semifinale del campionato europeo, battuta una grande Italia ai calci di rigore. Eh sì, sono passati 136 giorni esatti dalla notte di Bordeaux, se la ricordate, il calcio di rigore di Hector, era il 2 luglio, l'Italia fuori dall'Europeo, le lacrime di Barzagli e di Buffon, tutta la retorica per un grande europeo finito malissimo quella sera lì, anche i rigori di Zaza e di altri, insomma, tirati male. Sono passati 136 giorni, questa sera ci risiamo, Italia-Germania, che però è solo l'etichetta di Italia-Germania, perché a San Siro giocano due nazionali poco più che sperimentali. Adesso arriva anche Pierluigi Pardo, Tutti convocati è in onda, anche se c'è lo sciopero, lo sapete, da questa mattina della redazione giornalistica di Radio 24, di tanti colleghi del programma, siamo in onda perché chi è titolare di questa trasmissione ha deciso che Tutti convocati non scioperava, poi non è presente per questioni strettamente personali e noi da collaboratori esterni siamo in onda per produrre Tutti convocati. 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Marco Nosotti, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te. Che effetto ti fa 136 giorni dopo Italia-Germania? Mi fa un certo effetto perché mi piace sempre. Perché quel 2 di luglio non mi è andato giù, anche se non abbiamo la riprova. Io credo che se avesse superato lo scoglio dei rigori, perché fino a lì c'era arrivata indenne questa nazionale, con la sua motivazione, con il suo agonismo, con la sua determinazione, con quel bello spirito di squadra, ecco, io credo che avesse superato indenne quel quarto, forse le cose in semifinale potevano essere veramente interessanti, fermo restando che la Francia, a differenza di noi, aveva giocatori che potevano cambiare la partita sempre. Però c'è rimasta lì, c'è rimasta. Sì, perché ero stato anche all'Allianz Arena quando ne abbiamo presi 4, cambiando in 2 giorni il sistema di gioco. E allora, sai, con i tedeschi è sempre bella sfida. E allora adesso voglio vedere come va a finire, perché le cose sono cambiate, decisamente. Sì, è forse l'Italia-Germania meno importante dei tre di questo 2016. Sì. Dai, inutile che ci giriamo intorno. Sì, sì, perché loro ovviamente metteranno giovani, interessanti, eccetera, finché vuoi. Ecco, rimangono sempre squadra che pone al centro non tanto i giocatori quanto il sistema di gioco, quanto il pensiero, il gioco. E quindi è sempre interessante con l'organizzazione che hanno cimentarsi con loro. E questa è una nazionale che sta crescendo, un momento interlocutorio, un momento di novità. Giustamente, bisogna vedere che cosa ne viene fuori dalla prestazione in chiave futura. Ecco. Sì, hai ragione. Forse la meno importante. Cioè l'etichetta è poco più d'Italia-Germania. Sì, anche io respingo il mittente, tutto questo, anche il fascino, per carità, ma c'è anche. Insomma, c'è anche tanta letteratura che si fa intorno al fatto di scrivere un'amichevole come questa nella lunga storia d'Italia-Germania, che è una storia gloriosa, fatta di mille cose, fatta di grandi ed epiche battaglie. No, qui oggi sarà una partita seria in cui noi dobbiamo dire a questi ragazzi questo sistema di gioco, come si sta decontizzando questa nazionale, come sta assumendo sempre più le idee di calcio e l'atteggiamento che vuole Ventura, ma che sta nascendo. Intanto torna alla difesa 3. Sì, torna alla difesa 3 con appunto Rugani e Bonucci e Romagnoli. Ecco, mi incuriosisce anche il lavoro che ho visto fare un pochettino per quello che ci è stato permesso di questo centrocampo a 4 con gli esterni che possono andare, soprattutto in Zappacosta, di là c'è Darmian, il lavoro che fanno le punte. State provate diverse combinazioni per gli attacchi centrali, per il lungo corto, i tagli delle punte, i veli, che sono tipici del lavoro delle punte centrali di Ventura. Vediamo cosa fa Eder tra le linee, perché può anche andare. Cioè, ci sono delle soluzioni anche interessanti. Ecco. In questo momento io mi godo anche gente come Belotti e Immobile, che mi piace. Belotti mi riempie gli occhi, mi riempie la voglia di calcio, ecco. Perché è un bel personaggio. Ma secondo te a che punto è Ventura nella sua idea di trasformare quest'Italia, di decontizzarla? Allora, sul decontizzare diciamo che è avanti, perché oggi ne avremo 4-5 di quelle 2 luglio, perché sì, con Buffon, cioè, sono 4 in movimento il portiere. Si sta allontanando da quello, sta portando con gli esterni, quindi ha portato 6 esterni, 6 attaccanti, 6 esterni in questa convocazione, e sta lavorando sui giochi, sul cambio generazionale. Io credo che i frutti, mi auguro che vengano prima, credo che lavori molto per chi verrà dopo di lui. Non credo che sia tutto poi finalizzato, anche se importantissimo, se non sarebbe una tragedia davvero, la qualificazione del 2018. Siamo all'inizio di questa decontizzazione, o meglio, di una nuova, di un nuovo ciclo, di un nuovo percorso, con anche altre, non soltanto segnato dal sistema di gioco, ma dagli interpreti e dall'attenzione diversa che avrà per il campionato. Poi vi facciamo sentire, sì, siamo solo all'inizio, anche se poi il tempo in realtà è poco, perché il 2 settembre è dietro la porta, sembra lontano, ma in realtà è praticamente dopodomani. Poi vi faremo sentire il dialogo a distanza tra Ventura e i club, in questo caso impersonati da Marotta, sull'ipotesi di cominciare prima di Ferragosto il campionato per dare 3 giornate. La follia lucida di Ventura che mai passerà. 800 24 00 24, però approfitto di Marco Nosotti per sentire Riccardo da Roma. Riccardo. Sì, buonasera, grazie. Eccoci, buonasera a te. Io le sentivo proprio prima in radio 24, no, forse l'esordio di Donnarumma e so. Volevo parlare di altro, cioè da tifoso già si fanno i sondaggi. Sarà o non sarà il nuovo portiere della Juve? Cioè, se continua così, senza più la possibilità di avere, non dico un Milan, un Inter, un Napoli, ma un Leicester che vince il campionato diventerà un grande vivaio della Juventus, e agli altri non resterà che qualche sporadica impresa, un pareggino a Torino e una presenza in Champions che non sarà certo quello della Juve. Cioè, mi dispiace sentire che i giocatori di questo livello sono tutti riconducibili. Non mi stupirei che ci finisse i Cardi, guarda. Sì. E volevo sapere che ne pensavate. Guarda, sui Cardi che la Juve ci ha provato ed è stato raccontato nei mesi scorsi. Su Donnarumma io non so che pensiero hai tu, Marco. Guarda, è veramente il nuovo Cavani. Ha margini di miglioramento immensi, dalla fisicità ai fondamentali. Io me lo seguo, me lo godo anche in nazionale di fianco a Gigio, quell'altro. Oggi faranno staffetta probabilmente, che c'è Buffon a fare 167 caps in nazionale, questo sarà molto bello, e Donnarumma ha il suo pubblico. Io ho l'impressione, siccome la Juve sta cercando il dopo Buffon, che quella possa essere la strada, ma sarebbe una sconfitta del Milan cinese, perché arrivano i cinesi, hanno possibilità, io te lo porto di là. Donnarumma è bravo, Donnarumma fa ancora qualche errore, perché forse perché ha 17 anni, perché i tiri in porta che ha ricevuto sono stati quelli di 60-70 partite, e quindi per dire il rapporto con l'impegno di alto livello deve continuare, deve consolidare. Ho paura che questa Sandoraio si metta in testa una cosa. Sì, ma sembra un finale già scritto, dai, diciamo la verità. Sì. Sembra un finale già scritto. Sì, direi di sì, guarda, direi di sì, non lo so. Il Milan, aveva detto bene il presidente Berlusconi, ha il portiere per i prossimi 20 anni. Deve saperlo mantenere. Io non lo so, potrebbe essere la prima, non sarebbe neanche carino presentarsi cinesi con questa sconfitta. No, anzi, io credo che un minuto dopo il closing, 2-13 dicembre, quando lo faranno un minuto dopo il closing, i cinesi, Fassone, devono avere un solo obiettivo, e quello di fare questo benedetto contratto a Donnarumma, che, questo è il mio parere personale, deve diventare il prossimo Maldini del Milan. Cioè, sarebbe devastante il segnale. Io capisco che i tifosi della Juve siano contenti, ma sarebbe devastante il segnale. Sì, ecco, appunto, guardiamo, noi siamo al di fuori e guardiamo se questo ragazzo è gamba, questo ragazzo, ricordati, almeno io ho qualche anno e mi ricordo che c'è un fatto concreto, interessante, dipende dalle radici. Le radici sono buone di questo ragazzo, le ha piantate nella terra buona, il papà, la mamma, la nonna. questo ragazzo sono cose a cui i vecchi procuratori davano, o i vecchi direttori sportivi davano molto peso, no? E credo che sia, le doti umane di questo ragazzo sono importanti e credo che sia un valore aggiunto. E dici bene, per diventare il nuovo Maldini, il nuovo, cioè la bandiera di questa squadra, bisogna averle e credo che lui possa andare così, senz'altro. Poi ti dico, tecnicamente ha dei margini di miglioramento incredibili, ha un'esclusività. No, ma lui è un fenomeno, è un predestinato assoluto. Sì, in tutto e credo che non valga neanche il paragone con altri che sono stati definiti predestinati negli ultimi mesi. Penso anche a Scuffè, ad esempio, che è arrivato a un passo dalla nazionale e poi si sono persi. Marco, approfitto di te, ti faccio sentire allora questo duello a distanza tra Ventura e la sua lucida follia e Marotta. Allora, prima Ventura e questa sua volontà di chiedere che la Serie A giochi 3 partite prima di Spagna-Italia. Si sanno che soprattutto le grandi, che poi sono quelle che di solito offrono i giocatori, iniziano tournée all'estero, fanno e poi arrivano e hanno bisogno dei loro tempi, quindi questo è un problema, che almeno 2, questo sì, è già stato chiesto. Io in realtà in un momento di follia avevo chiesto 3 domeniche di campionato, ma mi hanno detto se mi facevano ricoverare, quindi allora sono sceso subito a 2. Secondo me un po' ci fa, però ti faccio sentire anche Ventura e gli schematizzati. Noi ormai siamo un po' schematizzati così, ma giocano tutti, quindi dico, è interesse nazionale, tra virgolette, poter andarci a giocare ad armi pari, poi se sono più bravi, diciamo siamo più bravi, però giochiamoci. Ecco, è evidente che, però questo è stato chiesto, poi vediamo quello che succederà. Secondo me un po' ci fa perché sa che le 3 giornate iniziando prima di Ferragosto sono impossibili, Marco. Allora tu chiedi 3, poi retrocedi a 2 e almeno blindi la seconda. Sì, quello è vero. Un po' di l'idea tattica. Non è male, l'idea non è male perché obiettivamente quando ci siamo visti a Bari in Italia-Francia ci siamo accorti che la gamba non c'era, che la testa... Il problema a questi grandi livelli, oltre a essere la gamba e la brillantezza che non ha in quel periodo, è anche la testa, l'aver staccato per tempo, perché questi fanno qualcosa, fanno vacanze, ma poi subito partono, prima si immagazzinava, era un'altra metodologia di allenamento, adesso devi partire per trasferte lunghe, per trasferte in cui ti alleni fino a un certo punto, giochi molto, ma lo richiedono i contratti faraonici che si propongono, i bilanci lo richiedono. È per quello che credo che queste siano le situazioni oggettive. Ma è una partita persa. Allora, dai, intanto è arrivato anche Pierluigi. Aspettiamo, ciao, che si mette la cuffia. Sentiamo Marotta. Grande, è arrivato. Quindi il fatto che tu modifichi il campionato italiano, ma non puoi modificarlo quello straniero, tutto sommato non porta dei grandi vantaggi. Quindi capisco l'esternazione di Ventura, legittima, ma credo che ci siano degli impedimenti oggettivi. Quindi discorso finito prima di cominciare. Buongiorno. Discorso finito prima di cominiare. Direi di sì. Senti, cioè, nel senso, ci puoi mettere buona volontà, ma non ce la fai. Ecco, però deve smuovere questo, anche se fosse una battaglia contro il mulino a vento, la deve fare, perché questa nazionale ha bisogno di essere presa in considerazione e quello sarebbe un modo per aiutarla, almeno le 2 giornate. Secondo me la provocazione del 12-13 è per blindare il 19-20, cioè questa è la sostanza, per essere certi che... Perché anche particolarmente iellato, che insomma il calendario, anche il 19-20 è molto vicino a Ferragosto. Vediamo. Secondo me ha ragione Ventura, per fare una cosa straordinaria come cercare di vincere secondo Spagna e andare al mondiale, il piano Feli bisognerebbe andiamo fare in vacanza a luglio più che agosto. Luglio è il mese in cui fa caldo. Ma luglio sta bene fuori, poi si viene ad agosto a Milano, non c'è traffico. Ho capito, no, adesso è partenuto, voglio dire, c'è questa che è un po' una mezza anomalia italiana del mese di agosto, perché poi dalle altre parti lo vediamo a livello di calendario calcistico, si parte quasi sempre prima. E dal punto di vista tecnico, lo dicevamo ieri con Federico Ferri, è sicuramente un vantaggio cominciare prima, allinearci con gli altri campionati, c'è anche il preliminare di Champions League e di Europa League, cioè partire all'inizio di agosto può essere utile, è meno utile ovviamente è meno produttivo per i telespettatori, per i tifosi, per gli abbonati e per le televisioni, perché agosto la gente sta al mare, ma dal punto di vista strettamente tecnico, se parti prima è meglio. Sì, però non lo faremo. Grazie Marco. accadrà. Vi saluto, buona giornata, forza azzurri, visto che oggi ci sono. Sì, ah, certo, e noi ce li godiamo. Stasera si gioca, anche se non è Ferragosto, si gioca. 800, certo, 800-24-00-24, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Tutti convocati. La pressione di Lasagna, Motolivo ruba palla, è Lasagna che va via, attenzione, anzi è Crimi, col sinistro, Donnarumma, straordinario, straordinario. Donnarumma, sempre un altro tuo gioiellino, a chi lo paragoniamo? Ah, vabbè, Donnarumma è facile, un Modigliani? Sì. Quanto è stato battuto? 170 milioni di dollari. Belotti contro Donnarumma, parte Belotti, destro Donnarumma, il boato di San Siro, il boato di Donnarumma, rimane in vantaggio il Milan che vince la partita al 94esimo, il sorriso amaro di Siniša Mihajlović, l'eroe non è più Carlo Bacca, è Gigio Donnarumma, il Milan vince 3-2, una partita con un finale pazzesco. La Juve ha sempre dato tanti giocatori alle nazionali, soprattutto, sorrido così tu capisci, negli ultimi vent'anni ha sempre dato il portiere della nazionale, è sempre stato juventino. Sì. Quindi, no, Buffon, Zoff. Higuain con Cuadrado che accompagna, c'è anche Khedira, un po' scoperto Milan, Khedira, Donnarumma con un guizzo, la mette in calcio d'angolo e l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Oh, secondo te cosa voleva dire Marotta con quella battuta lì? Voleva farci parlare per qualche giorno di questa suggestione, che è l'obiettivo pienamente centrato, perché insomma la Juve in questo momento è razza padrona nel nostro calcio, va e prende il miglior attaccante della seconda in classifica, va e prende uno dei migliori centrocampisti della terza in classifica, va e sceglie, questa è la sostanza. Se la ruota non gira, se qualcosa non cambia, se non c'è una spinta dall'esterno o qualche evento di carattere, diciamo, accidentale che altera gli equilibri, e questo tipo di sistema può durare per molto tempo. Quindi, no, ma a me fanno sorridere i tifosi del Milan che dicono Donnarumma non andrà mai alla Juve, sono le solite baggianate messe in giro da giornalisti compiacenti. Insomma, le parole di Marotta compiacenti di cosa? Forse no, anche perché siamo compiacenti di Raiola. A parte compiacenti di Raiola, in una situazione come questa, parlarne non so se aiuti la possibilità, no? Tante volte, per esempio, nella politica sappiamo che tirar fuori un nome a livello giornalistico significa bruciarlo, tirar fuori una notizia significa fare in modo che non avvenga. Quindi non saprei dirti se il fatto di parlare oggi di Donnarumma alla Juve possa facilitare oppure invece rendere più difficile un eventuale trasferimento nel prossimo futuro. Certamente è una grande suggestione, Marotta l'abbiamo sentito, insomma, ha avuto in questa intervista. Chiaramente alludeva, no? Penso non ci siano grandi discussioni, era abbastanza evidente. Adesso poi è arrivata la smentita, Donnarumma è un pilastro secondo me per il Milan irrinunciabile, però insomma il tema c'è, non è che la Juve si sia fatta molti scrupoli, giustamente, legittimamente, dell'andare a prendere Higuain facendolo diventare core in grado bis, e quindi figuriamoci se non può avere, molto razionale, siamo da questo punto di vista. Siamo destinati a diventare un po' la Bundesliga dove il Bayern fa la lista della spesa. Vediamo però, vediamo, dal Borussia Dortmund. Perché in realtà in Italia la sproporzione fra la prima e le altre dal punto di vista del potenziale economico è una sproporzione soltanto relativa, mentre in Germania c'è. Cioè in Germania il Bayern è nettamente la squadra più forte, più potente, quella con più tifosi. In Italia la Juve è la squadra con più tifosi, ma non è che Milan, Inter, Napoli e Roma siano squadre che ce l'hanno pochi. Quindi da questo punto di vista, secondo me, in generale il tipo di gap potrebbe anche essere meno forte. Certamente la Juve ha preso un bel vantaggio, perché da quando ha costruito lo stadio, vedi l'importanza degli asset. ha costruito la stadio, ha cominciato a vincere, i soldi portano soldi, vince, aiuta a vincere, e quindi si è creato un meccanismo virtuoso che adesso gli consente di poter giocare in anticipo su tutti gli altri. Però in prospettiva, secondo me, Milan, Inter, lo stesso Napoli, la Roma e anche altri eventuali progetti imprenditoriali possono funzionare, possono arrivare delle persone da fuori piene di soldi, come è successo per esempio del Manchester City, che non è certamente la squadra con più tifosi in Inghilterra, faccio per un esempio. Quindi insomma, nell'immediato la Juve è razza padrona, nella prospettiva dei prossimi 10 anni 15 anni invece è possibile che tutto si riallinei. Ci sono, prima, ovviamente. Ci sono Edoardo e Piero, ci sono tifosi del Milan che scrivono: non andrà mai alla Juve, altrimenti zero biglietti venduti a San Siro per i prossimi 20 anni. C'è anche chi chiede se per caso Marotta non si riferisse a Perin, che è il terzo portiere della nazionale. Io credo di no. Io credo si riferisse a Donnarumma, mi sembra la cosa più logica, perché Donnarumma sembra ad oggi, poi magari in futuro le cose cambieranno, sembra l'erede designato di Buffon come titolare della nazionale. Perin è ovviamente un ottimo portiere, ma è in quella categoria nella quale ci sono stati Sieri, Gumarchetti, Viviano, probabilmente con qualche margine in più dettato anche dalla sua età, comunque ancora molto giovane, dei portieri subito di rincorsa. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Secondo me si riferiva a Donnarumma. Sì, anche secondo me. Edoardo da Lodi. Sì, buongiorno, grazie. Eccoci. Per avermi chiamato. Volevo sottoporvi una considerazione. I nazionali, già che ha tempo, sono sempre i direttori dei vari movimenti, della pallavolo piuttosto che altri, sì, sport. I motori dei vari movimenti, sì. Ecco, nel calcio no, perché... Beh, lo sono stato in passato, insomma, nel calcio la vittoria del Mondiale nel 1982 dell'Italia ha fatto da motore, da spinta per il calcio italiano nei 15 anni successivi, nei 20 anni successivi. Guarda, io adesso ne parliamo con un ospite importante fra qualche minuto, vengo proprio da lì, dalla presentazione del bilancio integrato da Federcalcio. E credo che, poi d'accordo che adesso siamo in un'epoca di sfascismo, di Brexit, tutto va male, bisogna buttare via tutto, però se guardiamo quello che sta pian piano diventando il calcio italiano, insomma, non è ancora ovviamente in linea con le culture calcistiche più progredite, ma sicuramente negli ultimi anni delle cose sono successe, sono nati degli stadi di proprietà, ci sono società che non ce l'hanno lo stadio e vorrebbero averlo. Il Bologna, cito l'esempio perché prima parlavo con Fenucci, il Bologna per esempio ha fatto un lavoro importante a livello di acquisto di tutta l'area del campo d'allenamento. Cioè le società italiane stanno patrimonializzando, i giovani calciatori cominciano a tornare fuori, cominciano ad esserci vivai di un certo livello, insomma non è tutto da buttare. Purtroppo noi abbiamo perso un treno. Noi abbiamo avuto la grande sfiga che negli anni 90, quando dominavamo il calcio mondiale, il calcio non era ancora così globale, e quindi in quegli anni lì, dove veramente tutti erano pazzi del calcio italiano, vincevamo sempre noi la Coppa UEFA, che era allora la signora Coppa UEFA, era diventata una specie di Coppa Italia perché la vincevano sempre le squadre italiane, in Champions idem, arrivavamo quasi sempre in fondo, eravamo fortissimi. Beh, in quegli anni lì purtroppo il calcio era ancora molto locale. Oggi il calcio è diventato, oggi da 15 anni il calcio è diventato globale, quindi è chiaro che se gli sceicchi, gli emiri e i ricchi di tutto il mondo avessero avuto la possibilità di cominciare a pensare di comprarsi una squadra di calcio negli anni 90, sarebbero venuti a Milano, a Torino, a Roma. E non a Parigi, a Manchester. Piero da Verona. Piero, poi abbiamo la pubblicità, non la borsa, perché oggi la borsa di Radio 24 tace per sciopero. Piero. Buongiorno. Eccoci. Io sono un tifoso milanista. E a proposito di Donnarumma, mi sembra che si tenda più a parlare, non dico da gossip, però si parla di Raiola, della società, del calciomercato, e poi si fa il confronto come futura bandiera Donnarumma del Milan. Però per essere futura bandiera del Milan, forse dovrebbe essere Donnarumma che magari si metta in condizioni di far fare a Raiola quello che serve per restare al Milan ed essere la bandiera, e non viceversa, perché se no, se Raiola va a imporre questo e quest'altro per fare i propri interessi, no, basta, Donnarumma non è più la mia bandiera. Però dovete dirmi il nome di un giocatore che prende un procuratore come Mino Raiola e poi non si fa, sì, aiutare a così fare così giovane, e gli dice no, io voglio... No, ci può stare come ragionamento, ma guarda, allora è evidente che Raiola sia un procuratore che ama molto muovere i giocatori, perché poi sappiamo che muovere i giocatori significa anche fare soldi, nel senso che ci sono delle commissioni o ci sono delle possibilità di andare ogni volta a rinegoziare, clamorose. Questo vale in generale nel mondo del lavoro: se hai mercato e ti muovi, vai sempre a star meglio e con te i tuoi procuratori, quindi non è una cosa diversa da quello che succede nel resto della società. Detto questo, poi ogni giocatore è artefice del proprio destino. Pavel Nedved, che era un assistito di Raiola, in Italia è stata la Lazio, poi è stata la Juve e lì è rimasto, d'accordo, era la parte finale della sua carriera, però comunque non è che cambiava squadra ogni anno. Ibrahimovic cambiava squadra ogni anno, Vieri c'era un periodo che cambiava squadra ogni anno ma non aveva Raiola come procuratore, quindi poi alla fine è chiaro che la volontà del giocatore è molto importante. Detto questo, se oggi in Italia la Juve si muove e ti fa una grande offerta, insomma, è chiaro che possa essere anche intrigante, ma ripeto, stiamo parlando del nulla, nel senso che magari Donnarumma deciderà invece di rimanere al Milan. C'è chi ricorda che il suo contratto scade nel 2018, che è anche la data di scadenza di Buffon. Fra l'altro, io credo che a febbraio ci sarà, può esserci pure dietro a queste voci, e in qualche modo si lega al valore del giocatore, anche il pressing di Raiola, che dice ai dirigenti del Milan: ragazzi, sveglia, perché qua bisogna rinnovare, altrimenti questo giocatore a scadenza potrebbe finire alla Juve, e allora appunto potrebbe succedere tranquillamente che magari fra 2-3 mesi avremo un rinnovo magari per altri 4-5 anni di Donnarumma al Milan. Non c'è nulla di scritto, certamente la notizia però c'è, ecco, non è che sono i giornalisti cattivi che si sono inventati sta cosa, è Marotta che, dicendo le parole che abbiamo sentito prima, inevitabilmente fa nascere delle suggestioni. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. Se volete mandare i vostri WhatsApp e SMS 349-238-6666, come Davide da Milano, che scrive: dite a Pardo che rimane un grandissimo, ma i parcheggi vanno fatti meglio. È vero. Che? Ho messo quattro frecce, ho fatto una cosa un po' romana, ma non dava fastidio a nessuno per andare a ritirare l'accredito questa sera. No, e invece ricordiamo che siamo in onda, perché insomma sia io che il dottor Capuano siamo collaboratori esterni di questa radio, per cui insomma non, nel momento nel quale ci dicono che il programma va in onda, siamo qui a fare il nostro dovere, ma sappiamo che oggi non sciopera. Questo programma non sciopera, per scelta nostra. Assolutamente, non per scelta nostra, e insomma, quindi l'adesione, ovviamente la solidarietà personale, credo sia assoluta nei confronti dei colleghi che stanno scioperando per la situazione di cui avrete letto, anche se poi in realtà questa radio è una piacevole eccezione sempre da quello che si legge dai bilanci, e questo ci rende ovviamente felici. Proposito dei bilanci, Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, buon pomeriggio a tutti. Come va? Soddisfatto della presentazione? Io sono reduce dalla presentazione del bilancio integrato, mi sembra una cosa molto moderna, molto innovativa. È un modo di rendicontare tutto quello che una federazione con 1,5 milioni di tesserati fa quotidianamente, e soprattutto quello che vuol fare in futuro. Come hai potuto vedere, ma da pochi minuti anche online, per chi se lo vuole scaricare, non è un documento che appassiona appassiona tutti, però chi è curioso e chi vuol veramente vedere cosa rappresenta il calcio in Italia, penso che sia un documento importante di trasparenza, quinto anno di rendicontazione sociale, perché poi alla fine io condivido che la bellezza è la partita, il gioco, l'emozione, la passione, però anche un'attività è una forte attività sociale e di integrazione, come cerchiamo di integrarlo alla parte dello sport. Sì, perché poi spesso qua, anche parlando di altre cose, io mi trovo sempre a usare questa espressione, una società di calcio, per esempio, in questo caso una federazione, a maggior ragione una federazione che ha un valore pubblicistico, diciamo, statale, non è un'azienda di tubi, con tutto rispetto per i tubi o di panini o di noccioline, ma è chiaramente un business, perché è un business, perché nel bilancio ovviamente. Beh, noi li abbiamo pubblicati sabato in Sport e Business, esatto. Solo 24 ore, solo la nazionale vale 80 milioni. Vale 80 milioni, ovviamente, oltre al valore di carattere economico, c'è un valore di carattere anche sociale, di valore nel tessuto di una nazione. È un po' questa l'idea del bilancio integrato: mettere insieme non le pere con le mele, come si diceva una volta, mettere insieme i numeri, la cronaca sportiva, la cronaca economica e invece tutta una serie di iniziative, per esempio di inclusione. Oggi ci sono stati dei passaggi molto importanti con tutta la lotta contro il razzismo, le tante iniziative che ci sono. Beh, cioè, l'integrazione fa la parte la parte sportiva, ed è notizia di pochi secondi fa che anche la nazionale Under 19 si è qualificata per le finali degli europei pareggiando 1-1 con la Svizzera, quindi finendo al primo posto il girone. Questo lo dico giusto perché mi è appena arrivato il messaggio dall'Armenia, e quindi collegare e mettere insieme la parte sportiva del gioco, della passione della nazionale, della partita di stasera con la Germania, e dagli 8, 9, 10 milioni di persone che guardano in TV, con una responsabilità sociale che una grande federazione deve avere, una grande federazione che ha numeri economici importanti, che ha un fatturato di 160 milioni di euro. Non ci si può occupare, non ci si deve occupare solo della parte sportiva, ma ci deve anche occupare della responsabilità che uno ha, per esempio come abbiamo visto oggi nell'integrazione di tutti quei ragazzi che arrivano purtroppo da altre parti del mondo, alcuni su gommoni, alcuni a nuoto, alcuni salvati nel canale, che vanno a finire in dei centri di accoglienza. Il calcio e la federazione fornisce loro tutto il know-how all'allenatore. Questa è la storia di questo ragazzo che dopo 3 anni è finito a giocare nel Trapani, da un gommone a giocare in Serie B, penso che sia il sogno di qualsiasi ragazzo. Insomma, il calcio aiuta anche a questo. Io devo dire che tutta la presidenza da vecchio è un po' una lotta anche un po' contro i pregiudizi, anche contro i miei pregiudizi, lo dico proprio in maniera aperta, tanto voi mi ascoltate tutti i giorni su questa radio, nel senso che lo sappiamo, da vecchio aveva cominciato malissimo con quelle famose gaffe, però la mia sensazione, non so se Ugo vuole dire qualcosa, ovviamente Giovanni, è che poi forse proprio aver cominciato male con una serie di gaffe, per carità, soltanto lessicali, però molto gravi, molto pesanti, abbia dato un ulteriore impulso invece a tutta una sensibilità, direi quasi progressista, di questa federazione. Nel senso che comunque c'è una serie di cose tangibili, molto concrete, molto avanzate dal punto di vista etico, che questa federazione sta facendo. E questo, insomma, francamente ne dobbiamo, siamo felici di tenerne conto, no? Che dopo una partenza stonata, poi in realtà invece sono arrivati. Noi stiamo qui e osserviamo. Questo è l'oggettivo, no? È così come sarebbe stato assurdo chiudere gli occhi e far finta di niente su quelle scivolate. Credo che sarebbe estremamente scorretto oggi non tenere conto del fatto che questa federazione è all'avanguardia da mille punti di vista. Non so che ne pensi, Giovanni. No, ma io credo che quello che hanno detto all'assemblea della Juventus Agnelli e i dirigenti della Juve in un certo senso certifichi il cammino che è stato fatto in questi 2 anni. Cioè, se un club passa dall'opposizione assoluta a comunque un'apertura di credito, per quanto condizionata, vedere, capire, e fra un po' si entrerà nel vivo di quelle che saranno le elezioni per il prossimo presidente o magari per la conferma di Tavecchio, io credo che questo sia un po' il significato di questo percorso. Tra l'altro Uva è personaggio che, da quanto mi risulta, da quanto è stato anche detto pubblicamente, dà grande fiducia insieme a Tavecchio. Ma no, di commentare diventa difficile. La verità è che è bello pensare qualcosa di innovativo, cioè il fatto di dover chiaramente rincorrere. Siamo partiti oggettivamente, la gestione di Tavecchio è partita da meno 273, dico io, dallo zero assoluto in termini di chiaramente di popolarità, anche per delle gaffe che nessuno nasconde ci sono state. Però il percorso è stato è entusiasmante, perché poi alla fine noi ci mettiamo come dirigenti, ci mettiamo la stessa passione che ci mettete voi nel parlare di sport e di calcio nelle vostre trasmissioni, ma ce la mettiamo anche noi. La verità è che ogni nostra azione che ha un impatto sulle persone, sui tifosi, sui giovani, sulle persone in difficoltà, vi dico la verità, ce lo sentiamo come un dovere. ce lo sentiamo come una parte integrante della nostra vita, e penso che sia importante. Poi se non c'è investimento, non ci sono investimenti, quelli che stiamo facendo non c'è futuro, quindi è un percorso ostacoli, però è un percorso esaltante, un percorso che vede, attenzione, non solo il direttore generale, non solo il presidente, ma vede 234 dipendenti che credono in qualcosa di nuovo, che credono nel calcio, e penso che anche l'attenzione vostra e l'attenzione anche dei tifosi, perché i dati televisivi, radiofonici degli ultimi europei, che si stanno trascinando anche con le partite di qualificazione, dimostrano che l'azzurro tira sempre. Abbiamo, credo, almeno altre 3-4 domande. Io volevo partire, perché poi è anche uno dei temi di giornata, volevo capire dal numero 2 della Federcalcio se è rimasto un po' deluso dalle prime reazioni dei club alla richiesta di Ventura di cominciare prima per preparare meglio Spagna-Italia. Ma no, assolutamente no. Io penso che le cose vanno concertate, cioè nel senso che lì con gli stage ci siamo arrivati parlando e spiegando prima ai club il percorso, l'idea, l'obiettivo, quello comunque di monitorare, di far lavorare anche giocatori che non sono, diciamo, nella rosa della Nazionale A, ma che hanno la potenzialità di arrivarci. Tutti i club l'hanno capito, tutti i club l'hanno sposato, e siamo arrivati alla programmazione di 3-4 stage, che il primo partirà la prossima settimana. L'idea di partire prima di Ferragosto è una follia, come lo stesso Ventura l'ha definita. Esattamente, io arrivo, quindi va concertato. Capisco che può essere il desiderio di un allenatore, dall'altra parte capisco che bisogna prima parlare con gli interlocutori, quindi le società, la Lega, capire la fattibilità e poi proporre sempre delle cose fattibili, perché poi alla fine tutti quanti viviamo in un mondo, no? Vorremmo il mondo ideale, però sappiamo che bisogna arrivarci per gradi. Quindi capisco la richiesta dell'allenatore, ma capisco altrettanto la posizione dei club, che dicono che iniziare il 13 agosto è difficile, anche se in alcune nazioni come l'Inghilterra si inizia anche prima, però c'è un periodo, le cose vanno concertate nelle dovute sedi. Secondo me, senza togliere nulla ai media, le cose vanno discusse nelle sedi e non vanno discusse, diciamo, pubblicamente. Certo. Quindi probabilmente si è un po' mosso d'iniziativa. Abbiamo un minuto, sì, siccome poi ci sono parliamo dello sponsor che invita al gioco, magari, ci chiede Ale d'Arcore, insomma sappiamo il tema, se è un po' vecchio, nel senso che è di un mesetto fa, però rimane sospeso, no? Cioè, come riuscire. Sì. Prego. Io sono molto sincero. Parliamo dell'opportunità, sono d'accordo. Parliamo dell'opportunità di una federazione di legarsi a un marchio di scommesse sportive. Io ho giocato a Totocalcio, penso la prima volta che avevo 6 anni, 7 anni, quando iniziavo il Totocalcio ha finanziato lo sport dal 48 al 2003 per 18 miliardi di euro. E lo Stato ha incassato nello stesso periodo 20 miliardi di euro dalle scommesse sul calcio. E allora, se parliamo dell'opportunità, va bene. Poi non voglio dire che le altre federazioni lo fanno tutti, quindi dovremmo farlo anche noi. E la verità è l'impegno che la federazione, che ha già deciso che questa cifra viene devoluta a progetti sui giovani, a progetti per combattere. Attenzione, la ludopatia non dipende dalle scommesse sportive, dipende da altri tipi di scommesse, altri tipi di gioco d'azzardo. Quindi dividiamo la scommessa sportiva dal gioco d'azzardo, così è la prima, la cosa penso coerente da dire. Poi dopodiché c'è l'opportunità o meno, le altre nazioni l'hanno fatto, noi pensavamo di non fare nulla di male, ci è venuto dietro chiaramente una valutazione, però a questo punto non scommettiamo più sulla maglia della nazionale. Sulle nazionali scommettono 30 milioni di euro l'anno. Allora, c'è un po' di populismo nel criticare. Diciamo, è una io sogno un mondo che non si lega alle scommesse, ma tutti i giornali, televisioni, io sono uno radio, che non scommette internet, mediamente, ho fatto un progetto. fatto un progetto, fra l'altro charity, legato a una squadra di rifugiati che saluto, che era Liberi Nantes a Roma con una società di scommesse. L'ho fatta proprio perché era charity, ma in generale io nel mio privato non scommetto, nel senso non ho proprio questa passione, e invito nei limiti del possibile a viverla in maniera serena. Cioè, se uno ha il piacere di scommettere è un conto, ma se uno ha una forma di invece di patologia legata all'ossessione, deve secondo me parlare con uno bravo, ecco. Quindi questo, però mi sembra un po' ipocrita francamente questa roba qui, e poi è vero pure Uva con eleganza dice che non bisogna guardare il resto del mondo, però insomma, mi sembra una prassi assolutamente consolidata. Poi, no? Lo Stato italiano ancora oggi incassa 140 milioni di euro di ricavi dalle scommesse o scommettere calcio, diventa illegale, e allora quello sarebbe un altro tipo di mondo, ma se scommettere invece è legale, credo che insomma non ci sia nulla di male, ed è importante la precisazione che questa cifra viene devoluta per una serie di progetti sociali. Fra l'altro, questo bellissimo libro di 150 pagine con tutti i numeri in cui la federazione si mette a nudo sarà disponibile anche online, lo diciamo? Sì, assolutamente sì, nella sezione trasparenza che nel sito della federazione c'è pubblicato in italiano e in inglese il rapporto, e anche pubblicato quel video di 7 minuti in cui ci sono gli highlights per chi non vuole sfogliare giustamente 150 pagine. Perfetto, grazie. Però, insomma, sono sempre una bella lettura. Grazie Michele Uva. Grazie a voi, grazie soprattutto a voi. Grazie Michele Uva, c'è il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Tutti convocati. Ovviamente sappiamo che la ludopatia è una malattia, e quindi non ci stiamo scherzando sopra. Esprimiamo un parere su una sponsorizzazione da 2 milioni di euro per la Federcalcio, e comunque il tema è aperto, anzi io trovo che sia anche bello e positivo che abbia scatenato in queste settimane un ampio dibattito sull'opportunità. Ma assolutamente, è chiaro che noi veniamo da una cultura, forse è meglio così, insomma, diversa rispetto agli inglesi. In Inghilterra non ci sarebbe mai stata una roba del genere. Insomma, io ho fatto l'Erasmus a 20 anni in Inghilterra e giocavano tutti come dei forsennati. Cioè, è parte della cultura di un paese. Secondo me, in generale, si scommette troppo, nel senso ci sono troppe fattispecie di gioco, e alcune di queste possono essere anche facilmente manipolabili per dei fini loschi, perché se scommetti sul numero di calci d'angolo piuttosto di chi batte il primo calcio d'angolo o su cose che poi non sono rilevanti dal punto di vista del risultato, il rischio secondo me c'è. Però in generale, nel momento nel quale una cosa è legale, è legale. Federico, Pietro, Simone, Federico. Sì, buongiorno, salve. Eccoci. Grazie per lo spazio. E una considerazione, una domanda. La prima era su Donnarumma. A me, da amante del calcio, mi dispiacerebbe tantissimo vederlo alla Juventus, perché la Serie A è famosa anche per il suo romanticismo, diciamo, e quindi secondo me più per demeriti del Milan che per meriti della Juve questo trasferimento potrebbe avvenire, perché essendo un campione sicuramente la voglia di vincere ce l'avrà, e quindi secondo me sta al Milan tornare fra le grandi, certo, per tenerlo. Sicuramente. E invece sto leggendo molta speculazione su Messi, e volevo sapere se era l'ennesima fantascienza il fatto che non rinnovi e quindi ci sono voci di mercato, oppure sta soffrendo la convivenza con Neymar, Suarez e appunto i guai fiscali. A Barcellona dicono un'altra cosa. A Barcellona dicono che soffre problemi con il fisco e si sente un po' accerchiato, non più coccolato come un tempo. Non è una questione tecnica, non lui è una questione economica. Due veri paradossi. Il primo è il fatto del fisco, che comunque, voglio dire, non si scherza, no? Nel senso che poi alla fine ci sono una serie di sanzioni anche di carattere penale. Ovviamente possibili, ma al massimo probabili, tutt'altro che certe, però insomma è ovvio che questo è un tema, no? Che gli rende la vita un pochino meno lieta in Catalogna. E dall'altra c'è il fatto che con l'Argentina, soprattutto in un momento come questo, ci sono delle difficoltà. La famosa parola merda detta l'altro giorno, no? Che tanto ha fatto scalpore, è in qualche modo anche il termometro per un giocatore che storicamente è sempre molto tranquillo, no? Che non dice mai niente, che non è proprio il massimo dal punto di vista giornalistico, perché uno di quelli che non dice mai niente. Gioca tutto, ecco, e stanotte si gioca tutto, c'è sempre questo, questo sorta di pregiudizio di una parte dell'opinione pubblica argentina che lo vede più come un giocatore spagnolo che argentino, il fatto che in nazionale non riesce a essere decisivo, per cui tutte le volte che va in giro per il mondo nascono speculazioni. È chiaro che il contratto, lo sappiamo, scade a giugno del 2018, 31 anni. E quindi è il momento. Pietro. Pietro, sì, eccoci. Buon pomeriggio. Io volevo dire su Donnarumma, non è che il Milan non vuole fargli il contratto da professionista, il problema è che deve arrivare a 18 anni. Sì, deve arrivare a febbraio. Finché non ha 18 anni non può avere un contratto da professionista, il Milan glielo vuol fare, sono questione di tempi tecnici. Non credo sia solo questione però di tempi tecnici, almeno a leggere anche quello che qualche settimana fa ha detto Mino Raiola, quando ha detto vediamo quali sono i progetti, perché io conoscevo il Milan di Berlusconi, adesso vediamo cosa sarà il Milan dei cinesi. Io ho l'impressione che non sia solo questione di tempi tecnici e che non sia tutto così scontato. Poi tra l'altro c'è un paradosso, cioè il paradosso che tu lanci un giovane prima dei 18 anni e poi rischi di perderlo proprio perché non lo puoi proteggere dal punto di vista contrattuale, che se vogliamo, certo. È un paradosso che espone i club a qualche rischio. Simone dalla provincia di Bologna. Simone. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo intervenire a proposito degli stadi di proprietà in Italia, nel senso che più che un problema di mancanza di programmazione da parte delle società, la vedo più come un problema politico, nel senso che saranno una decina d'anni, a memoria almeno, che senti presidenti che vorrebbero costruire nuovi stadi di proprietà, però poi dopo quello che manca, secondo me, è l'autorizzazione delle amministrazioni comunali. Lei prima citava per esempio il caso di Bologna, dove anche lì si sta cercando di rinnovare lo stadio Dall'Ara, lo stadio di Bologna, però secondo me, e parlo da tifoso, non da persona informata sui fatti, siamo ancora in alto mare. Sì, qualcuno però ce l'ha fatta, anche senza le leggi speciali. Parlo della Juve, parlo anche dell'Udinese. Però la Juve va detto per onestà, che è proprio la famosa area della Continassa, no? È stata concessa. Cioè, ci deve essere una collaborazione da parte dei comuni, su questo non ci sono assolutamente dubbi. C'è la pubblicità, non il GR, che non c'è per sciopero, poi torniamo subito. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 15. Questo giornale radio non va in onda per lo sciopero indetto dai giornalisti di Radio 24. Finestre informative alle 8, alle 13 e alle 19. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Vado? Hai bisogno del verde? Allora, bomba, sveglia! Tutti convocati. Pensar en positivo, en cambiar toda esta situación de mierda que estamos viviendo y intentar de salir, hacernos fuertes nosotros. Sabemos que vamos a recibir palos de todos lados ahora, como viene diciendo en este último tiempo, pero hacernos fuertes nosotros y vamos a salir de esta situación. Eccolo qui, il merda di Messi che farà storia. Abbastanza per il momento, poi vediamo che succede. Ripeto, secondo me la situazione è meno grave di quello che sembra, però è ovvio che in questo momento, insomma, l'Argentina sta rischiando. La situazione è grave, ma non è seria. Cioè, no, Bausa ha fatto fuori Higuaín e ha messo Pratto. Sì, Pratto. Sì. Ricordi Pratto in Italia? Come no? Ci hanno scritto anche domenica il cammello al Genoa. No, cioè, l'Argentina gioca con Pratto, con tutto il rispetto, con la quantità di talento che avrebbe a disposizione. Oh, a proposito di talento, ti faccio sentire una vecchia conoscenza, anche nostra, che parla di un grande talento italiano che è soprattutto una tua conoscenza e sta facendo discutere. Ma lui ci ha provato e ci è riuscito, perché era ritornato a casa sua, alla Sampdoria, ha ritrovato il sistema di litigare un'altra volta e ormai credo che possa appendere anche le scarpette al chiodo. È un peccato perché onestamente sia da giocatore che da allenatore un talento così non ho visti pochi. Oh, questo era Fascetti, che notoriamente è un amico di Cassano e che dice di Cassano potrebbe appendere le scarpette al chiodo. Vabbè, ma questo è chiaramente, non è che dice una cosa così impensata. Anch'io sono amico di Cassano e non penso che la appenderà, però è ovvio che è uno che non gioca da praticamente ormai da, alla fine saranno 6 mesi senza giocare, sono tanti, insomma, l'età è ancora consente di poter giocare qualche anno perché ha 34 anni e perché fisicamente credo di non dire una bugia se dico che insomma, è integro, però poi dipenderà da mille cose, che ti devo dire, insomma, dispiace molto anche perché... Ma forse faceva meglio di andare via quest'estate. Ma sicuramente faceva meglio di andare via, però sai com'è fatto lui, no? È un po' di coccio su certe cose, è un bravo ragazzo di coccio, molto idealista, per cui era convinto che alla fine avrebbe trovato spazio in questa Sampdoria, vuole la sente come la sua squadra, la sua città, aveva cominciato la preparazione con gli altri, anche con delle rassicurazioni molto forti, nonostante il litigio avvenuto alla fine del derby, quello perso 3-0. Alla terz'ultima o penultima giornata dell'anno scorso, e poi qualcosa è successo, però non so, francamente non so dirti cosa. È un peccato, secondo me è un peccato, e vediamo a gennaio che succede. Marino Bartoletti, ciao. Buongiorno amici, professore, buongiorno. Essere con voi. Anche secondo te deve appendere le scarpe al chiodo, Cassano? Secondo me le ha già appese le scarpe al chiodo, sinceramente credo che non abbia più la mentalità del calciatore, malgrado ne abbia ancora la volontà. Probabilmente è stato un ritorno così, figlio un po' della speranza, del romanticismo, dell'idealismo, del tentativo di restare aggrappato a un mondo che probabilmente non gli apparteneva già più. In questo Pier alla libera docenza può aiutarmi, no, aiutarci e illuminarmi più di quanto non posso dire io che vivo di sensazioni. Vi propongo la mia idea, che cosa ho detto anche a lui, cioè che lui poi di fondo, al di là di tutto, sia stato meno agonista e meno ossessionato dal vincere, di quello che meno ambizioso di quello che probabilmente sarebbe dovuto essere. Cioè il vero problema di una carriera comunque importante, perché poi insomma Cassano uno ha fatto più di 100 gol in Serie A, due tre cosette le ha vinte, insomma non buttiamo via tutto, ha avuto delle stagioni importanti, certamente è come avere una Ferrari e andare in seconda, su questo non ci sono dubbi. Ma io Pier mi auguro, e credo che sia anche il tuo augurio, che trovi una dimensione umana che lo possa tranquillizzare. Adesso io non so cosa vuol fare da grande Cassano, certamente visto dal di fuori sembra che si sia molto tranquillizzato, molto normalizzato, anche se in questo caso il verbo non è esattamente... Certo, si dice maturato. Ma guarda, io ti dico, maturato, io Cassano lo frequento da qualche anno. 10 anni, cioè quindi tutta la parte del Cassano tra virgolette matto io non l'ho mai vissuta, io lo vedo come un vero grande pantofolaio, e questa è la verità, nel senso che anche le mie serate, anche le nostre cene, insomma è uno che sta lì, guarda la televisione, il calcio internazionale, va a cena, e quello è una visione molto familiare della vita, molto molto tranquilla, proiettata più sui figli che su altro, quindi da questo punto di vista c'è molta letteratura su Cassano, dovuta ovviamente al fatto che invece i primi anni della carriera di Cassano di anni rock and roll alla George Best, però insomma è un uomo di pochi vizi e secondo me è compiuto, poi non lo so, non voglio fare lo psicologo da quattro soldi, io ne ricavo sempre la sensazione di un ragazzo che di fondo sta bene, al quale è mancata probabilmente, anzi certamente, l'ambizione dei grandi agonisti, cioè questa roba qui lui non ce l'ha mai avuta, si è accontentato di essere uno che si divertiva a giocare a pallone, che prendeva un sacco di soldi per giocare a pallone e che vinceva ogni tanto delle cose, non ha avuto la forza di lavorare su se stesso per riuscire a conquistare qualcosa, non ha avuto l'ossessione che per esempio ha avuto, pensa a Pippo Inzaghi, no? Se io penso ai grandi esempi di agonismo, pensa a Inzaghi, pensa a Gattuso, sì, non ha mai avuto gli occhi della tigre, questa roba qui non ce l'ha mai avuta, e quindi però a me sembra, e glielo auguro, mi sembra un ragazzo felice, a posto, tranquillo, con la sua famiglia, e non è poco, ecco, appunto. Il mio era un augurio affettuoso, cioè io non riesco a immaginare Cassano fuori dal calcio, ma forse tu mi dici che la sua dimensione di vita la può trovare anche altrove, anche se avrà ragionevolmente altri 60 anni da vivere, insomma sarebbe bello che in qualche modo il Cassano calciatore, il suo, il suo talento, il suo amore per questo sport, al di là del fatto che forse, come dici tu, non ci ha messo l'impegno, la cattiveria e la fame pure avrebbe sì. dovuto avere sì, sì. In certi momenti della sua vita, ecco che tutto questo in qualche modo sopravviva, perché è stato pur sempre un gioiellino non banale della storia contemporanea del calcio italiano, al netto degli errori sicuramente sono quasi tutti autoimputabili. No, ma anche perché poi lo dico veramente di parte, da avvocato difensore, una difesa non richiesta, però perché poi veramente al netto di tantissimi errori che ha fatto, di alcune cadute di stile, penso la più grave sia stata quella poi chiarita ma in ritardo con Garrone, che è stata la cosa credo che gli abbia fatto più male in tutta la sua vita, di tutte le cassanate, di tutte le stronzate che ha fatto, mi è sembrata la più grave e certamente, però poi in generale sono tutte cose, sono tutti dei vaffa che partono, no? L'incapacità di stare zitto due minuti, non è che Cassano abbia mai litigato su delle questioni serissime o che abbia delle inimicizie profonde nel calcio, anzi, cioè, sono cose molto infantili, capito? Tutto sommato abbastanza banali, che però hanno sicuramente condizionato la carriera. Secondo me la cosa che ha condizionato di più è questa mancanza del mettersi in discussione, del ricercare il proprio limite fino in fondo. Lui ha sempre considerato, da un certo punto di vista è bello e lo rende molto letterario, ha sempre considerato questa fortuna che ha avuto come un piacere, cioè quindi il piacere di giocare a pallone, divertirsi, e chiaramente insomma di fronte a invece altri grandi calciatori che però hanno portato il loro livello di professionalità, di cura del fisico, di ambizione, perché la parola lì è sempre l'ambizione, l'ossessione del dover vincere a tutti i costi. Io ho la sensazione che a lui di vincere l'ha presa un po' più comoda, l'ha presa un po' più chiaro leggera. Che è meglio vincere e perdere, però poi c'è chi fa l'equazione Cassano Balotelli, c'è chi dice non ci si scrolla mai di dosso, una nomea negativa, sono molto diversi. C'è Andrea che lo vuole mandare al Napoli a gennaio perché no, dice, chi lo sa. Aspetta però, c'è Marino Bartoletti, perché abbiamo i nostri spunti sonori per le pagelle del martedì. Allora partiamo dal primo, scelto da Giorgio De Luca, Alvise Falzone, Gianmarco Ferronato. Tanto che cos'è questa? Domenica Bestiale. Ah, scusate. Caro Fabio con caro. Domenica Bestiale, ma Domenica Bestiale per chi? La prima che mi viene in mente è la Ferrari, ma non so di cosa voglio parlare. No, invece noi siamo un po' più sottili. È la Domenica Bestiale in più che Ventura non avrà per preparare Spagna e Italia. Abbiamo sentito prima anche Uva. Giustamente un amico ha scritto un messaggio per dire: beh, ho sentito parlare Uva, la proposta di Ventura è abortita in partenza. Tu come la pensi, Marino? Ha ragione il CT o hanno ragione i club che dicono paghiamo noi, comandiamo noi ed estate si fa altro? Ah, il guaio è che hanno ragione tutte e due, naturalmente. È chiaro che il CT fa il suo lavoro, cerca di farlo al meglio, sa che gli si prospetta una stagione molto importante, storicamente importante, perché per la prima volta si chiama qualcuno a ricostruire, ma lo si chiama praticamente nell'imminenza di un evento importante che è dopodomani, cioè il Mondiale del 18, che però sapremo molto prima se dovremo affrontarli o meno. Tendenzialmente, romanticamente, umanamente sono dalla parte di Ventura, a meno che ho sentito parlare ieri giustamente da parte di qualcuno dei vostri ospiti di coiti interrotti, cioè non vorrei che cominciassi il campionato, poi si comincia a fare un'altra cosa, poi si riprende il campionato. Un minimo di continuità sarebbe quasi più vantaggioso che non un inizio molto precoce e così lontano dalle nostre abitudini. Beh, ma tre giornate però sono meglio, viene in mente quella vecchia pubblicità, due busti è meglio che one, tre giornate allora, danno più continuità di due. Allora diciamo così, speriamo che in qualche modo ci sia un progetto per utilizzare al meglio queste tre giornate, sì. Che non restino soltanto veramente un coitus interruptus, e adesso parlo anche in latino. Resteranno due, è inutile che ci giriamo intorno, resteranno due. Secondo spunto sonoro, credo non musicale. Ah, il voto. Il voto Ventura è 7.5 per l'entusiasmo veramente adolescenziale perché che ci mette nelle sue cose. A Uva 5 sistematicamente, insomma, perché evidentemente Che ti devo dire, è un 5 prevenuto, va, mettiamola così. Va bene, appena avuto, fra l'altro, a saperlo ti chiamavamo. Adesso lo giriamo. Lo facciamo il secondo punto. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale, cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz, 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare, l'Italia è in finale della Coppa Rimé. Questa è musica, non è una telecronaca. Io sorrido perché, secondo Gianni Brera, mio indimenticato maestro, questa fu la partita più imperfetta della storia del calcio. Cioè, lui partiva dall'assioma che la partita perfetta è lo 0-0 ed erano delle sue tante provocazioni. Effettivamente, al di là della drammaturgia di questa partita, che venne scritta da uno sceneggiatore particolarmente fantasioso e crudele, soprattutto per i tedeschi, in effetti, se pensate a quanti errori vennero fatti perché venissero realizzati quei gol, da quello di Schnellinger che passava di lì a tutto quello che accadde subito dopo, non fu la partita più bella del mondo, resta la partita più storica del mondo. Vi debbo deludere perché forse qualcuno crede ancora che ci sia veramente quella milantata targa alla Azteca. A me mandarono apposta, ci andai per altri motivi perché dovevo documentare il record dell'ora di Moser, quindi parliamo della preparazione dei mondiali dell'86, cercai per tutto il perimetro questa targa fino a che un custode mi disse: soltanto voi italiani credete che ci sia. Beh, siamo sempre in tempo però è bello crederci. Ma io ho visto anche qualche foto, Marino, però perdonami, sono assolutamente apocrifi. No, però il voto non è su Italia-Germania 4-3 che merita 11, neanche 10, anche la telecronaca alla che abbiamo sentito. Alla faccia del nostro maestro. No, il voto è su Italia-Germania di questa sera, che è un simulacro, perché noi ormai ci stiamo abituando a vedere mille volte Italia-Germania, Italia-Francia, Italia-Francia, stasera, Italia-Germania o concerto dei Placebo? Questa è la vera domanda. Cosa si può fare di alternativo? Ho paura che sia un concerto in playback, è questo che mi preoccupa, e i concerti in playback, ragazzi, non sono mai molto belli. Noi corriamo due rischi: uno, di fare una brutta figura, sicuramente questo non aiuterebbe; due, ancora peggiore, di fare una bella figura contro una squadra che non ha voglia di giocare ed illuderci che quello che abbiamo fatto di buono possa essere in qualche modo credibile. Detto questo, cinicamente parlando, naturalmente, ma l'età me lo consente, è chiaro che non si può non apprezzare almeno il coraggio con cui Ventura manda in campo questa squadra, sì, sì. Un po' per obbligo, un po' per filosofia. Mi ricorda molto questo tentativo di ricostruzione, quello dei dopo mondiali del 74, quando venne rasa al suolo una generazione. Ora qui la generazione non è ancora stata rasa al suolo, c'è soltanto qualche assente per infortunio, però il coraggio di Ventura, per ragione, per forza, per ispirazione, per convinzione, assomiglia abbastanza a quello di Fulvio Bernardini, che disse: ok, si ricomincia, mando in campo della gente che si chiama Tardelli, che si chiama Antonioni, tengo al massimo un paio di vecchietti, poi vediamo cosa succede. Successe che poi quell'esperimento lo affidò a Berzot, che nel 78 Berzot sfiorò praticamente il titolo mondiale, anzi in qualche modo moralmente lo vinse, perché forse era la squadra ancora più forte di quella che poi l'avrebbe vinto nell'82. Quindi voto a Ventura per il coraggio, voto a chi allestisce questa partita un po' più basso, voto alto a Ventura per il coraggio, voto un po' problema, più basso. Il problema sono le amichevoli, siamo al simulacro, che secondo me forse è anche sbagliato portare a San Siro, perché non vorrei che si misurasse un pochino. Anche se stasera di gente ce ne sta. Posso dire, cioè, adesso partendo dal presupposto che le amichevoli sono meno arrapanti di non so che cosa, di un latte macchiato, quindi voglio dire, è ovvio che stiamo parlando di una con cosa. Con tutto rispetto per il latte macchiato. Sì, che fra l'altro forse è più arrapante di certe amichevoli. Però detto questo, insomma, la federazione fa il massimo che può, fa Italia-Germania, anzi addirittura qualcuno l'ha criticata perché può essere un rischio, no? C'è il rischio figuraccia. Cioè, no, ma Ventura non le vorrebbe. Ventura vorrebbe giustamente qualcosa di più morbido. Poi ci sono le questioni economiche. Giochiamo a San Siro. Questo porta soldi, quindi insomma. Fai Italia-Germania, fai Italia-Olanda, fai Italia-Francia. No, ma il tema è quello. E non siamo mica solo noi. Stasera si gioca anche Inghilterra-Spagna. Esatto, c'è uno slot della nazionale e lo si onora al meglio. Cioè, io non lo so, sarà che sono un po' alla fine di fondo un ragazzetto naif, no? Cioè, io penso che stasera c'è Italia-Germania a San Siro. È un'amichevole, ovviamente. È chiaro che qualche esperimento verrà fatto. Però insomma, viva Dio, poteva esserci Italia, non lo so, scegliete voi il paese, c'è Italia, Germania e San Siro, c'è di peggio nella vita, ecco. Poi fra il concerto dei Placebo e Italia Germania sono un po' combattuto, ma questo è un altro però discorso. Entro le 15:30 ci dirai che cosa scegli. Oh, Marino, ti rubo ancora due minuti, abbiamo un altro spunto, però prima ci sono Gaetano e Nicola che ci aspettano da ore. Gaetano. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo solo tornare un attimo per fare una riflessione insieme a voi. Sì. Ho sentito parlare molto di Donnarumma. Sì. Ma non vi sembra che tutto questo parlare di un ragazzino di 17 anni possa causare un'autocombustione come è successa con Balotelli? Solo questo volevo dire. Che vogliamo fare? Non ne parliamo? No. Non parliamo. No. Parliamo di, non lo so, parliamo di Emanuele Filippini. No? Cioè, voglio dire, sì, certo, il rischio c'è. Il rischio c'è e lo ricordiamo spesso che nella vita meravigliosa, nella vita fortunatissima, scegliete voi l'aggettivo che preferite, dei calciatori che sono delle persone assolutamente fortunate, perché poi se no uno, però c'è sempre questa componente di stress che non può essere sottovalutata, quindi che un ragazzo così giovane si trovi comunque tante pressioni addosso e che questa cosa qui non sia una passeggiata di salute, come diciamo noi a Roma, secondo me è vero. Detto questo, ovviamente beato lui, no? Per i soldi, sembra, per la carriera, per il talento. Mi sembra che abbia le spalle molto larghe. Oltretutto sì, non soltanto sì, certo, in senso metaforico, anche in senso fisico o viceversa. Quindi mi sembra che abbia anche un'educazione personale, una preparazione umana che mi rassicura parecchio. Il ruolo è delicatissimo. Pensate a Scuffetta, ve lo ricordate Scuffetta? Sì, sì, ma lo citavamo prima. Tra quelli che si sono bruciati pur essendo arrivati lì ed essere stati etichettati come dei predestinati. Intanto Lippi ha iniziato con uno 0-0 la sua avventura sulla panchina della Cina. 0-0 contro il Qatar e passaggio del turno oramai quasi compromesso. Nicola. Tutto questo a 20 anni Scuffetta, quindi adesso diciamo che si è bruciato, ma gli auguriamo magari fra due anni, ecco, torna. Nicola. Buongiorno. Eccoci. Tanto complimenti per la trasmissione. Io volevo fare un appunto al discorso di Pardo di un attimo fa, in cui dice che il fatto di avere la marca dell'azienda delle scommesse sulla maglietta dell'Italia è legale. Certo, è legalissimo. Ma comunque non è solo maglietta. Andiamo avanti, Nicola, però non è solo, almeno evitiamo il presupposto sbagliato in partenza. Prego, Nicola. No, d'accordo, ma sarebbe a quel punto sarebbe giusto o comunque attuabile anche una bella seta Marlboro. Secondo me, d'accordo. No, perché è legale, perché c'è una legge che vieta la pubblicità del tabacco. Ma solo in perché Italia, c'è una legge che vieta la pubblicità, paese, però. Sì. Però un ragazzo può comprare la sigaretta come può andare a scommettere. Cioè, il punto è questo. Il punto è che ci sono delle cose che sono giuste, se vogliamo. Sì, però ma l'italiano io sento prima di qualsiasi partita che il signore manda in terra, sento Claudio Amendola che ci dice che è parte di non so cosa, vedo pubblicità e vedo live betting, televisioni, giornali, cioè le vedo ovunque. Allora io quello che dico è, se vogliamo essere ipocriti, possiamo esserlo fino in fondo, però voglio dire, cioè, o decidiamo che scommettere, che lo Stato è paternalista e che quindi le scommesse fanno male e quindi le scommesse non si fanno e torniamo a 30 anni fa per quanto riguarda l'Italia, 20 anni fa, o se no, francamente, dire che siccome la nazionale fra i suoi 50 partner, perché poi i partner principali della nazionale sono altri, oggi è stato presentato Puma, è stata presentata Fiat, cioè, e che fra questi partner ci sia anche questo, come tutte le altre federazioni del mondo, mi sembra francamente un po' una questione secondaria. Poi certo, meglio i maccheroni meglio che ne so. Mi fate sentire il terzo spunto sonoro. Sono qui che annaffio i fiori mentre tu sei fuori con chissà chi. Dimmi davvero cosa pensi, non mi devi dire sempre solo sì. Le ragazzine di 15 anni ne dimostrano quasi 30, ma stanno bene così, così. Trattami come un uomo che non sono un bambino, non mi diverto più. Poi cosa chiedi perdono quando sbaglio io, che cosa c'entri tu? Vorrei soltanto un po' di tenerezza, magari solo una carezza, e ti costa, lo so, lo so. Generazione di fenomeni, ringraziamolo. Due voti veloci. Generazione di fenomeni. Tutti in piedi davanti a Gaetano Pureri, ragazzi. Due voti, due voti. Stesso album di Swatch, scritta da Francesco Guccini. Hai capito. Guarda ancora l'ora sulla tavola delle canzoni più. Una delle canzoni più romantiche, più malinconiche, più proprio veramente Swatch, andatela a sentire. Allora, io voglio due voti veloci. La prima per la generazione dei fenomeni è anche un po' scalpitanti. Abbiamo visto Valentino Rossi che prende a calci una tifosa spagnola. Abbiamo visto. Ha fatto benissimo. Iannone che ha preso a calci la Ducati. No, non l'ha presa a calci. Beh, è stato abbastanza elegante. Ha detto con eleganza quello che più o meno Calcetti. Pensava. Io l'ho visto, l'ha detto sorridente e ha detto quello che pensa. Effettivamente c'era ormai inevitabile freddezza fra lui e la sua scuderia, però l'addio direi che è stato di una civiltà quasi anacronistica nello sport. Quest'anno è veramente, sai, come in quei balletti di una volta, cos'era, la gavotta in cui ci si scambiava i cavalieri, le dame, eccetera, eccetera. Nel mondiale di MotoGP effettivamente c'è un minuetto straordinario per cui col mercato piloti, e credo che sicuramente lo spettacolo ne sarà rivitalizzato. L'idea di Lorenzo sulla Ducati, l'idea. Ma me lo dai un voto al calcetto di Valentino o no? 8, ha fatto benissimo, 8 ha fatto benissimo, perché la gente è lì per lavorare. Sì, adesso gli faranno causa, sì. Poi transeranno. No, non possono fargli causa. Comunque chi entra nei paddock entra a suo rischio e pericolo. A maggior ragione non si possono fare i selfie, non si possono fare gli stupidi, non si possono impedire. Non si può impedire ai piloti di fare il loro lavoro. Anzi, alzo il voto, gli do 9. Solo perché 10 se glielo dava più forte. Grazie Marino. È un piacere. Ciao, ciao. Scherza, grazie Marino Bartoletti. Abbiamo ancora 4 minuti. Peccato, come corre il tempo. Velocissimi, questa sera Milano contro Vittoria, Geri De Rosa e Marco Calvani. Ciao a tutti e due. Buonasera, ciao Gerry. Ciao Marco. Milano contro Vittoria, che significa il ritorno di Bargnani in Italia. E Marco Calvani, se questa sera Bargnani sarà a livello top, come dicono quelli importanti, avrà avuto una parte, perché magari tu non te lo ricordi, Pier, ma lui quest'estate, prima degli appuntamenti della nazionale del preolimpico, ha allenato da solo Bargnani per riportarlo in forma. Sì. Come lo ritroviamo, Marco? Ma intanto voglio dire, quello che fa Andrea, grazie alle sue qualità e capacità, non certo per qualche mese che siamo stati insieme quest'estate, insieme ovviamente a Francesco Guzzolin, per cercare di rimetterlo in una condizione giusta ed essere pronto per il preolimpico con la nazionale. Le qualità di Andrea ormai le sappiamo tutti. Ricordo benissimo l'anno del draft, quando venne preso da Toronto. Io andai a chiusura di quella prima stagione a vedere la parte finale del campionato, la fase della regular season e del playoff. Credo che insomma sia un assoluto lustro per la pallacanestro nazionale quello che Andrea è riuscita ad ottenere con quel primo posto nel draft. È stata una cassa di risonanza indifferente, un'ulteriore conferma. Resterà la sua medaglia, al di là dei risultati del campo, il fatto di essere stato il primo chiamato. Questa sera fa paura, Geri? Beh, decisamente. Anche è vero che domenica ha fatto un punto, ha giocato 18 minuti, però è già entrato venerdì scorso e ha giocato un terzo quarto da prima scelta assoluta. Quando è così Bargnani non ha rivali, è immarcabile. Quando è come nel terzo quarto contro il Fenerbahce, Vittoria ha massacrato il Fenerbahce, 34 punti di distacco venerdì scorso, e con questo Bargnani è assolutamente immarcabile, non per i milanesi ma diciamo per tutta l'Eurolega. Se è questo, lo è stato contro il Fenerbahce 6 o 7 minuti. Il problema di Bargnani, ma di molte anche altre giocatori squadra, è questa frequenza con cui si gioca. Questa sarebbe la terza partita per lui in 4 giorni, e visto che è reduce da un infortunio, forse non sarà quello di quel terzo quarto con continuità stasera. Milano sicuramente lo spera. Sì, Milano, ore 20:45, diretta con Geri De Rosa. Quindi, la terza soluzione per la sera. Quindi abbiamo il placebo, Italia-Germania o Armani-Vittoria. Adesio. Che dici? Che facciamo? No, De Luca, che facciamo? Per i placebo, De Luca, perché i placebo gli piace. Per il concerto. Il placebo al Forum mandano Milano Adesio. Esatto. No, mi spiace questa cosa. Non è che sono parente di Brian Molko, tra l'altro, quindi non è che ho delle responsabilità, però ecco. Volevo chiedere a Marco Calvani, prima di salutarlo, che Milano si aspetta, visto che Milano ha vissuto queste settimane un po' sulle montagne russe. Sì, credo che sia il peggior cliente per Vittoria in questo momento, perché comunque dopo la reprimenda di Repesa, dell'allenatore, è ovvio che la soglia attentiva dei giocatori è molto alta. Il club è stato così discreto nel non prendere una posizione né in un senso né nell'altro, però i giocatori sanno benissimo che l'allenatore ha tirato una linea che aspetta tutti quanti nel dargli una risposta e soprattutto una continuità di risposta per quello che fino ad oggi l'allenatore non è riuscito ad ottenere da loro. Quindi direi che per Vittoria è il peggior momento. Come giustamente diceva Geri prima, Andrea rientra da un infortunio, quindi non è ancora al top, però è un giocatore di assoluto livello, non semplice come cliente, perché se vuole è veramente immarcabile. E resta comunque una gara speciale. Grazie Marco Calvani, grazie a anche a Geri De Rosa. Posso dirti, mi è arrivato un messaggio Geri. di Pupo, il cantante, che dice che la pubblicità alle scommesse è un vero scandalo. Magari ne riparleremo anche con lui. Il dibattito è aperto. Domani ne riparliamo, dai. Il dibattito è aperto, Pupo, magari per parlare anche con la Fiorentina, ti chiamiamo. Adesso gli ho risposto via SMS. Domani lo chiamiamo. Ci starà ascoltando, ma noi siamo pieni di ascoltatori anche, insomma, a un certo livello, anche Vips. Potremmo fare la nostra tribuna autorità. Domani va dopo bene, il GR delle 14, grazie a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vado a fermi mezz'ora Italia-Germania, 8 canzoni dei placebo e l'ultimo quarto di Milano-Vittoria. E che Forum e Tesio non sono vicinissimi. Sarebbe la serata ideale. Dai, torniamo domani, ciao. Pigia il rosso, devi pigia stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!